tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Bomba di Firenze, radio collegate di Bologna e Genova, benvenuti ad una nuova puntata del notiziario ateo anticlericale. Ricordiamo il sito del Circolo Giordano Bruno, www.giordanobrunomi.wordpress.com, e per il calendario anticlericale 2021 dedicato al 700° di Dante, info@sicilialibertaria.it. In questo numero parleremo anche del clerico fascismo in occasione del 25 aprile. Ma iniziamo con Don Diego, il prete no mask di Vanzago in provincia di Milano, che è stato cacciato dalla curia. Ci sono ampi articoli sulla cronaca locale, sul periodico Sette Giorni, e si parla appunto che ci sia sotto qualcos'altro, poi vedremo. Un nuovo libro contro i preti pedofili, la Chiesa e gli abusi sessuali, sotto la lente degli archetipi culturali, edito dalla Terza, e ne riparleremo sicuramente. Messa clandestina in Cile, prete si lancia sotto l'auto dei militari che volevano arrestarlo, vi c'è anche un video che si trova su internet, prende a pugni i militari. Foggia, indagato parroco di Apricena, avrebbe sottratto oltre 40.000 euro a due fratelli disabili, da fanpage.it. Abbiamo poi le giunte clerico-leghiste, Piemonte in piazza contro l'attacco alla legge 194. La giunta reazionaria clerico-leghista fascista ci riprova, associazioni anti-abortiste nei consultori pubblici. Marche, Abruzzo e Umbria fanno guerra ai diritti delle donne, regioni con guida clerico-fascista di centrodestra. Allora, dal quotidiano nazionale del 17 aprile si è pentito il boss dell''Ndrangheta Nicolino Grande, tremano i faccendieri del Vaticano. L'Italia dei processi senza fine, 2 agosto, in aula il quinto uomo, un nuovo processo per la strage di Bologna, una strage cui mandante è il clerico fascista Licio Gelli, amicissimo di Andreotti e ex repubblichino. Moro, Craxi disse che Gelli era alle riunioni del Viminale, questo per fare in modo che Moro morisse sicuramente. Dal Fatto Quotidiano del 20 aprile. Misteri di Stato, il racconto di Sandra Bonsanti. Francesco Cosentino, segretario generale del Quirinale all'epoca, era figlio di Ubaldo, direttore dei servizi tecnici della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, vedi la fascistizzazione dello Stato. 20 aprile 2021, scandalo in Vaticano, i soliti prelati puttanieri rientrano alle 2 di notte. Colti in flagrante dalla polizia in violazione delle norme anti-Covid. Il Papa fa finta di ammonirli. Su Giallo, la Chiesa risarcisca la famiglia Piscaglia. Questa povera signora è stata uccisa dal frate, suo amante, in quanto evidentemente era incinta. Il prete innamorato e lo annuncia ai fedeli durante la sua ultima messa. Il mio cuore innamorato. Seppure non abbia mai avuto modo di trasgredire le promesse che ho fatto, voglio provare a vivere quest'amore senza sublimarlo, senza allontanarlo. Nel tondo di questo settimanale giallo, il parroco di San Felice a Massa Martana, vicino a Perugia, che ha gettato la tonaca alle ortiche. Ricordiamo sempre sull'erotismo clericale, Slavoj Žižek, Mimesis Edizioni, pedofilia, il segreto sessuale della Chiesa. L'abuso sessuale dei minori è effettivamente un problema interno alla Chiesa, cioè un prodotto intrinseco della sua stessa organizzazione simbolica. Qualche parola anche su Giordano Bruno e dal Candelaio. Nel Candelaio è possibile cogliere un eco della critica bruniana alla devozione religiosa dei cattolici, maturata nel corso dell'esperienza conventuale, quindi l'anticlericalismo bruniano. Nel convento c'era il divieto di coltivare studi di filosofia antica e scienze profane, però lui riuscì a procurarsi in questo convento napoletano di San Domenico, parliamo sempre di Giordano Bruno, a procurarsi questi testi nascosti nelle biblioteche. Era ostile nei confronti delle pratiche di devozione fanatiche tipiche del cattolicesimo. Alla fine fu sottoposto a un provvedimento disciplinare per cui si salvò dal carcere conventuale fuggendo all'estero. Era un antidevozionista. E secondo alcuni Bruno riconobbe in Cristo un impostore. Era contro questa religiosità popolare fanatica e criticava il ritualismo religioso, eccetera, l'antidogmatismo di Giordano Bruno, Ricordiamo di approfondire gli studi su Giordano Bruno. Eutanasia legale, se la politica latita, decideranno i cittadini. Depositato in Cassazione, referendum sul fine vita. L'associazione Coscioni a colloquio con Cartabia. Sulle disgrazie del clero sono usciti i dati statistici di molte diocesi. Per esempio, le diocesi di Milano dal 2001, che aveva 3.188 preti, è passata a 2.500, ne ha persi 700. Anche i frati da 940 a 700. E le suore, che nel 1970 erano ben 12.000, sono precipitate a 4.000. Le disgrazie clericali. Prete, se lo conosci, lo eviti. Viva il libero pensiero. Viva Giordano Bruno! Ma passiamo, come dicevo, al clericofascismo. Ricordiamo che nel 1922, il 25 novembre, la Democrazia Cristiana, che allora si chiamava Partito Popolare, votò a favore del governo Mussolini. In particolare votarono a favore del governo Mussolini De Gasperi, Gronchi e Montini, che era il padre di Paolo VI. A proposito della santificazione di Paolo VI, una decisione inopportuna. E visto il suo ruolo nella stesura del concordato clerico-nazista del 1933, anche suo padre votò alcune leggi che spianarono la strada al regime fascista. Facciamo ora un breve riassunto delle complicità clerico-fasciste. Un prete partecipò alla marcia su Roma. E 150 cattolici firmarono un manifesto pro Mussolini nel 22. Il Vaticano a un certo punto scarica il Partito Popolare. E i quali votano la legge truffa del 1923, obbligano De Gasperi a ritirarsi, Sturzo e Donati vanno in esilio, dove però non fondano un nuovo partito popolare. In occasione del delitto Matteotti, silenzio di Pio XII e De Gasperi, che non condannano il truce assassinio. Nella teoria degli opposti estremismi, silenzio sui condannati del Tribunale Fascista della Sicurezza dello Stato. In occasione della secessione dell'Aventino, no ad alleanza antifascista con i partiti laici. Ecco, la Chiesa mise il veto, quindi il PPI non collaborò a questa attività antifascista di questi aventiniani. Già nel 22 iniziano le benedizioni dei Gagliardetti e delle sedi del Partito Nazionale Fascista anche a Milano. Infinite lettere di Mussolini, laudatorie piene di benedizioni di preti, frati e suore che gli scrivevano continuamente anche per il suo compleanno. Ricordiamo nel plebiscito del 1929 la Chiesa diede disposizione di votare in massa a favore di Mussolini. Ricordiamo anche le onorificenze che il Vaticano diede a Mussolini. E nelle lettere di Giovanni XXIII che ho letto, che è un libro, appunto lui stesso, Roncalli, dice ai suoi parenti di non occuparsi più di politica, di non fare nessuna attività antifascista. Il concordato clerico-fascista del 29 dà alla Chiesa enormi privilegi, enormi quantità di denaro e titoli di Stato. Per quanto riguarda la scuola, Mussolini introdusse i crocifissi, l'ora di religione, messe, presepi e preghiera a scuola. La Chiesa, pochi lo sanno, criticò sempre da destra il fascismo. Il fascismo era troppo moderato, soprattutto nella censura teatrale. Il fascismo lasciava correre troppi testi, diciamo, boccaceschi, no? Lo stesso nel cinema, e la Chiesa invocò più volte una censura più drastica, no? Che non c'era. Nello sport anche lì la Chiesa era contraria, soprattutto allo sport femminile. La Chiesa fece un'apologia della guerra di Spagna, dalla parte dei fascisti, della guerra in Etiopia, e anche nella Seconda Guerra Mondiale i cappellani militari si sgolarono in prediche a favore della guerra. Dopo il 25 aprile, tramite la Rat Line, la famosa linea dei topi, dando documenti falsi e ospitando i criminali nazifascisti nei conventi, la Chiesa aiutò la fuga appunto di questi criminali. E poi quindi rinato il clerico fascismo e il clerico nazismo anche nel dopoguerra, in quanto la massa dei nazisti, dei fascisti sono stati salvati e sono ancora per molti anni, e alcuni ce n'è ancora adesso, all'interno delle strutture dello Stato, la fascistizzazione dello Stato. Quindi concludiamo con Logan: lottare contro il fascismo è lottare contro la Chiesa, lottare contro la Chiesa è lottare contro il fascismo. Arrivederci a tutti, saluti e alla prossima puntata. Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, sono morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia in o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Son morti sui 20 anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani. Marino Serri è morto, è morto a Rotondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri. Abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna. Uguale la canzone che abbiamo da Franchi, compagno a Rotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli. Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantare. Leave a